questo si accende, queste sono le funzioni, questo funziona così, dove devi andare lì, ok, ora per andare lì devi fare così, per memorizzare devi fare così. Qui invece è lì che ve la mirata, ma mi sciogliere invece non viaggio, non si fa così, cioè non è un ragazzino, è una persona anziana. Sì, la trama si è fatta così. Ogni tanto capitava a me e dice guarda ti riesci a sistemarmela, fammi vedere come si funziona, come funziona. Sì, sì, ma ne abbiamo già parlato, io non me lo ricordo, ma lo conosco anche, però in realtà ci abbiamo parlato sia in lupo in un, capito, me l'ha detto, è un attimo, come parla lui, no, lo sa, è un attimo, non mi piace, tutto un va, te l'avevo detto io che non era per te, non è che non ti piace, ha un uso che a te dà fastidio fare, perché è abbastanza complicata, è una radio di ultima generazione, quindi ti conveniva prendere qualcosa di meno complicato, capito? Anche con i stessi soldi, perché se lui si comprava il 27-25 nuovo della ICO, che ti dico che è un dual band eccezionale, fa di tutto e di più, ma di una semplicità proprio non c'è bisogno di leggere niente. Io l'ho comprato, l'ho acceso, ho memorizzato tutte le frequenze che a noi relatori interessano, con tutte le i vari shift e basta, boh, finito. E tu non fai altro che parlare tranquillamente. C'hai i toni sull'audio, c'ha tutto, e quindi va bene come resta. Lui no, è andato a pigliare il carrello e non serve a nulla per lui. Per qualcuno che magari ne capisce di più o che le interessa sperimentare va anche bene. Mi fate dunque quello di te, solo quello. Cosa volevo dire? Ma lui c'ha tanta roba, mi lampada, non usa mai quello della roba che va. Poi magari va a cercare e dice mica che c'aveva un pezzo, un alimentatore, una cosa, della linea. Lui c'aveva un sacco di roba. C'ha la patente dal 73, non è che virava a poco, già ne ha girato da parare. Ha detto, mi ha invitato la verità un sacco di volte, poi andare da solo così, non... Ho detto sì, passo a trovarti, insomma, che tra l'altro ho detto anche una balla perché non mi ricordo quanto dove abita, so che è dietro di te, ma non mi ricordo dove abita, e qui non sono mai andato, però me l'ha detto, che c'ha vecchie linee, che c'ha vecchi alimentatori, e vedi, a me un alimentatore grosso, stabilizzato mi serve, perché questi switch non servono a niente. E quindi mi servirebbe, ti ripeto, io ho la linea della Somarca 101 Digital che è molto bello, che a lui magari può interessare perché io non lo uso, è una linea vecchia metrica, prima della IAESO che va molto bene a 250 watt in banda laterale perché è a valvolare, capito? Lui magari la sa usare sicuramente meglio di me perché c'è da fare Select, che praticamente è la preselezione prima della trasmissione con la corda delle valvole, io la so usare per carità, però non mi piace, ma è troppo lenta, troppo, capito, lui magari si attenta di più, quindi le potrebbe interessare, oppure se vuole una sintonia continua di poco prezzo, io non ho problemi, se a me piace, a me le linee, le canette che piacciono molto, io ho dato la linea della linea Drake per questione di spazio, se non l'avrei mai data. Oggi mi sarebbe servita perché spazio glielo da regalare, perciò se lui c'ha una linea tipo la Drake, anche due pezzi, tre pezzi, quello che è, o anche un pezzo solo che mi interessa, che funziona bene, io glielo do 140, intanto una linea decametrica siamo intorno ai 250-300 euro, quindi non stiamo lì a guardare di da più di da meno, io sono appassionato, glielo do volentieri 140 giorni, resetto praticamente, le tolgo la parte della M che a lui non interessa, e lo devo tranquillo, sereno, garantito, capito? Se tu hai necessità del microfono da tavolo per il 240, lo devo pure, lo devo MC50 che in banda laterale non ha bisogno di niente, non puoi trasmettere in banda laterale, è come l'MC60 solo che non è più amplificato, però spinge, il processore spinge una betta in banda laterale. Quindi bisogna andarci, vabbè, ci dobbiamo andare. Sì, no, me l'avevo promesso anche io. Ma ogni tanto mi ha regalato qualcosa, ti ricordi? Mi ha regalato quel microfono, l'SBE nuovo, bello, però lì era stato modificato. Prima di metterci mano ho detto no, l'avevano fatto con a jack per parlare tipo riunioni così di voce, cioè non attaccare l'apparato, avevano fatto un ponticello, però non mi fido a toccarlo perché non ho lo schema, non ha giù fatto nulla. poi mi ha portato, l'altro giorno è venuto e me ne ha portato il robot, ricordi quello per parlare telescrivente, cosa è CCTV. Vedi, quella è una bella cosa, lo stesso, sì, per fare il packet, CCTV, la PRS, tutte quelle cose. E vedi, sono cose che lui ha da lui che era notore fino al 63, io sono al 93, e c'era Pietro 9, 30 anni prima di me la patente. Quindi sono cose che ho già visto, le conosco perfettamente, quelle che scrivete, però sono cose che magari ha, che mi potrebbero interessare, e quindi si può fare uno scambio tranquillo e sereno, capito, con Roberto. Sì, no, ma non è, la situazione non è tipo che affarista, cioè che tu devi forse farci lo sgobo, guadagnare, non è di quelle persone, cioè secondo colpi stati ti deve chiedere lui che ci deve per forza guadagnare, questo non deve fregare niente, di quelle persone tipo come può essere me o te, ti interessa quell'oggetto che c'ha, lui dice te lo vuoi questo, bene ti va, anche se mai vale di più la cosa di sarà, però se ti interessa, poi molte cose, a me quasi tutto me l'ha regalato, magari molte volte viene in officina, li faccio dei lavoretti, cose così, dice a me ti porta una cosa, a me porta questo. Mi ha portato un preamplificatore microfonico, lo stesso che l'abbiamo agli apparati sui, c'ha un sacco di funzioni, un processore, c'ha un bel, vabbè a me non mi serve quello lì, però lui aveva per abbinarci i microfoni con tutte le funzioni di coso, amplificazione eccetera eccetera, radio, cioè, e poi l'ultima cosa mi ha portato questa stazione per SSTV, bella, è in buono stato, non è funzionante, non è sulle, cioè, c'era la tastiera con tutto un sacco di interruttori, io non ne ho mai usato, non so neanche di cosa si tratta, però uno magari appassionato che si può fare anche un angolino alla stazione, metterci tipo una cosa storica, dai, con degli oggetti passati, è anche carino davvero. E a me piace così. Mi piace così, Roberto, nel senso che mi piace la roba antica, che però funziona, interpreti, io questa linea insomma è perfettamente, l'unica cosa che c'è è la lampadina bruciata dello smitter, che ogni volta che devo cambiare e invece mi dimentico sempre, basta, però è una bella digitale, con tutto il frequenzimetro, c'ha mille funzioni, capito? Però devo vedere che cosa c'è lui, una volta che io vedo cosa c'è lui, allora problemi non ce ne sono. Sì, dove andare, sì, dai, lo troviamo un attimino, una sera, e ci avviciniamo. Sì, non c'è, neanche quando chiudi, sentiamo per telefono e andiamo, capito? Ascolta, dimmi invece, l'hai provata quell'antenna per il camper? Ah, io l'ho piazzato tutto quanto, ho collegato tutto, tra l'altro era un attimo piazzarlo, ho dovuto solo modificare la staffetta del corso, siccome c'era già la staffetta per fissare l'apparato, alla 48 Plus, che è più piccolo del 48 normale, io perché volevo mettergli la staffa del 48, ma meglio che sia più piccolo. L'ho provata, diciamo non ho guardato le stazionarie, però in ricezione ho visto, scusate, c'era, forse oggi c'è la propagazione, era tutto il mondo collegato, sono uscito appena fuori e c'era tutto il mondo, Stati Uniti, Spagna, Russia, Germania, no, vabbè, Russia non lo so, Grecia forse era. Ho provato a chiamare, vabbè, ero in un buco di lì in officina, con la mezza discesa, l'ho visto, lo sto tenendo, probabilmente non riuscivo a irradiare, però ho visto l'antenna funzionava, non so se c'erano stazionari, infatti volevo provare a controllarle e poi magari a sentirmi se qualcuno mi ascoltava, no, ho provato a chiamare ma non c'era nessuno. No, io stamattina ero in un giro per commissione. Guarda, ti posso garantire che quell'antenna ce l'ha Pinuccetto il Moro, ve l'ho regalato io, non ha stazionare per niente, perché praticamente come hai visto è un tubo dritto con tutta la carica, con tutto l'avvolgimento fino alla punta, quindi puoi andare tranquillo. Mentre invece io sull'altra gemella della tua ho 1,3 o 1,4, pensavo di più, però si può usare tranquillamente. Di più non posso accorciarla, posso proprio provare un pelino, però sicuramente quelle 1,2 o 1,3 che mi dà sicuramente la base magnetica, capito? La base magnetica. Però va bene, sono soddisfattissimo, no, io l'ho provata e funziona benissimo con la mia, quindi quella lì è ancora superiore perché la carica arriva sino alla punta, mentre la mia la carica è sino a metà. No, ma usata insieme all'apparato, ti avrei visto, è abbastanza nuova, non è roba usata, diciamo, non è messa male come è stato l'uso. C'ha il microfonino piccolino, non so se l'hai visto, è bello, carino, perché è fatto apposta ad attaccarlo dietro, cioè quello è fatto da mettere in macchina, perché l'apparato è un pochettino più ingombrante, c'ha il microfono più grande, quello invece è proprio piccolino. Quel camper è già predisposto, non facevo altro che agganciarlo a fianco alla leva delle macchie, tutto dietro, ma così vede. Per toglierlo sono due viti, lo svitto, tac, lo metto da parte, un attimino. Io ero convinto di mettere la cosa, di che non andasse bene con l'antenna lì, come attacco, invece mi hai fatto vedere tu e andava bene. Ma è la sua, Roberto, quella è la sua, perfetta, è come quella che ho io. Gli attacchi sono quelli, no, non puoi sbagliare, già hai visto, è entrata perfettamente anche con la sua, vita, la sua farfalla attingere. È la sua. L'unica cosa ti consiglio, devi mettere un cappuccettino in gomma, capito? Perché magari se esci e sta piovendo, lì può entrare acqua e ti rovina l'antenna, perché dentro è vuota. Me ne sono dimenticato, già glielo metto, perché poi quella è in resina, così il vetro poi si inumidisce, diventa uno schifo, si sfalda, si fa l'osmosi, fatto bene a ricordarmelo. No, va bene, un attimino, tanto piazza, già una giubbetta di gommini in officina, non sarà quello. Poi mi piace perché arriva quasi all'altezza della vista, la mattardina che c'è, dove ci sono il fucilletto sopra la gabbina, qua e non tocca proprio, perché se mettevo quelle lunghe, le viste quelle in acciaio, si muove un bel, sbattono, fa marcia, mentre questa non tocca, è proprio millimetrica, ma arrivata a puzza. Mi piace per questo, speriamo che speriamo, almeno più finito forse non rende, almeno che non dia stazionale per non bruciare l'apparato. È solo così uno sfizio per provarla, quando mai riesci fuori, se sei in un punto alto a fare un collegamento, a vedere. Ma anche quando stai viaggiando, ti metti su 5, sai come la trara, hai necessità di qualcosa, quell'antenna è la sua. È proprio di quella macchina, Roberto, vai tranquillo, ricordi di mettere un cappuccetto perché l'ha fatto anche a me, praticamente è uscito con la pioggia, è entrata acqua nella resina e mi ha provocato stazionarie, perché si gonfia, capito, e crea problemi, perché all'interno poi, a parte l'esterno, invece tutta la carica volta alla gomma, all'interno c'è un filamento di rame, e quindi se quel filamento si bagna ti crea problemi, capito? Quindi metti un cappuccettino, l'ho fatto io, un tappo e si è a posto. L'antenna quella la lasci lì attaccata perché la sua, proprio nata lì. Allora una cosa, com'è quella RAM 48 Plus, come è uscita rispetto al 48 normale? Sono simili o cambia qualcosa? Tutto il 48 Plus, quello è arrivato a Daniele. Ed è un'ultima radio, un ultimo ricetrasmettitore. In meno del 48 la modulazione è un pochino più bassa, però mettendo al massimo il Mickey Game va bene, anche perché quello c'ha un, se non vado errando, tipo un preamplificatore d'antenna di modulazione che è favoloso, ti permette di ricevere moltissimo rispetto al 48 normale. Ho visto, non so poi, non ho fatto il confronto con l'altro 48, però ho visto che in ricezione era discreto. E poi c'è questo locale distante, ma cos'è, un attenuatore quello lì? Esatto, quello lì è un amplificatore di antenna, lo tieni, quando stai viaggiando lo tieni distanza, e lui riceve, che è una meraviglia. Magari quando sei in zona dove c'è gente forte e pigi locale, e lui ti si abbassa il segnale, capito? Ma automaticamente ti dà anche più radio quando tu lo metti a distanza, capito? Non so come sia fatto all'interno, però io l'ho provato, se metti locale ti si abbassa anche la modulazione, se invece lo lasci a distanza la modulazione è molto molto più forte. Vabbè, non ho avuto modo adesso, quando domani, se domani mattina adesso dovevamo uscire, oggi dovevamo stare questo giorno fuori e ritornare domani sera, ma ho visto come la giornata, magari andare a fare un giro così per vedere, per farlo camminare, era tanto per dire che la mo, così era scusa per provare la, come si chiama, la chiatura, se funziona, almeno a livello di cose di cettone funziona, in trasmissione ho visto che sale di potenza, poi non so se scaldando magari ci sia qualche rientro, devo fare la prova, telefono all'accordatore e vedere se c'è qualcosa. Oh vabbè, accordatore, tanto se ci sono tre linee stazionali, se non sono più altri di due le lascio stare così, tanto non è che trasmetti come stiamo trasmettendo adesso di continuo per tanti minuti, di rimani dare una chiamata, ogni tanto ti risponde qualcuno e basta, per cui anche se c'è un po' di rientro non riguarda nulla. Ma io infatti la mia non la tocco, cioè 1-3 la lascio stare così, non c'è stare a cocciare a fare, hai capito? Esce in base magnetica, sul fianco, quindi è chiaro che non puoi pretendere più di tanto. Sino a 1-5 si può trasmettere tranquillamente, poi dopo volta che vada in 48 si è aperto che è chiuso, va benissimo. E quella è la stessa cosa, anche se stai lavorando con 1-2, 1-3, lasciala stare così, vabbè. Metti un cappuccettino e va bene, ma non credo che ti crei problemi, perché quello è fatto in vetroresina, quindi a differenza dell'acciaio rientro di adesso non te ne può mai fare. Infatti sicuramente rispetto al metallo, che quando ti sembra dire quello in acciaio ti sbattono sulla carrozzeria, sul coso, magari ti può fare anche qualche problemino, invece quella che l'ho visto è giusta giusta, molto rigida, infatti non ce l'ho pensato, perché io non ci avevo fatto caso che si smontasse, pensavo fosse un corpo unico con l'antenna con la base magnetica, invece quella che ho visto, mi l'hai fatta vedere tu, ho detto e c'è a dire, poi fortuna ha voluto che è identica la base che avevo io, per cui non ha giocato nulla a me, un attimino, perché c'ha, me l'hanno dato con la presa di accendisigari, è già risposto, siccome c'è l'accendisigari e poi c'è un altro connettore vicino al volante, ho pigliato attaccando, messo il cavo dell'antenna, abbiazzato e andato, cioè non ho fatto neanche più di 2 minuti di lavoro, perché un secondo attacco, le due coppe di tempo, perché ho forzato un po' i fori, neanche i fori, ho dovuto tagliare la staffa di supporto, perché l'altra postretta l'ho tagliata in due, in modo che si allargasse un pochettino per far saltare la palla, e buh, per il resto non ha aggiungato nulla, nessuna modifica. No, ma anche quella fatta del 48 plus, allora quella del 48S, non cambia niente, il 48S c'ha le guide, quella invece c'ha gli attacchi con i pomellini, capito? Quindi alla fin fine va bene, no, vai tranquillo, con l'antenna ti posso garantire che vedrai che ti dà delle ottime soddisfazioni veramente, perché la signora antenna io l'ho regalata per forza maggiore a Pinuccio, è soddisfattissimo, vuoi a toccare, è uguale proprio a quella lì, uguale, mentre questa che ho io, la Mola, me l'ha data Massimiliano Bullover, l'ho modificata perché era un pochino più lunga e c'era il piolino per le stazionarie, l'ho fatta a misura di quella, hai visto che l'abbiamo misurata a misura di quella lì, ma occhio l'ho fatta e non ce l'avevo neanche, mi ricordavo la misura. L'ho fatto anche così, ho messo il cappuccetto e ho detto l'altra su 1-2, 1-3, di più non scende, ma va bene così. L'uso che ne faccio io, magari ogni tanto metto la radio nella smart, va più che bene, capito Roberto? Ma qual è quella che c'è di qua, che era una bomba, cacchio, sia la ricezione che la trasmissione, vabbè, la trasmissione passava il botte in tappalo, soprattutto la ricezione, quando andavi a Perugia, se ne avevi una piccoletta, ma era una bomba con l'antenna. Simile a quella che c'è tu, vabbè, uguale a quella lì, solo che come estetica, è uguale a quella che ti ho fatto vedere io, con la molla, capito? Però, praticamente c'è la molla uguale, lo stile invece è uguale a quello che c'è tu, preciso identico, con la carica tutta avvolta sino alla punta, sotto il rivestimento in gomma, uguale a quella lì, quella nera così, che sto usando per un certo. E poi ne ha una simile anche Marco Scorpio mi pare, no? L'ho visto sulla caccia, un'ante, lui c'ha una perché li fa le VLU e l'altra una per la 26. Perché Marco è copione, hai visto? Mi ha fottuto, si è preso anche la radio, quella la mia. Perché appunto quando l'ho piazzata io, che era di vecchia direzione, io quella l'avevo presa la Fiera di Milano, ce n'era una sola, lui è rimasto così, lo volevo anche io, ora non ce n'era, per mettere in macchina, perché esteticamente sono anche belline, non sono grandi, sono, però hanno una resa micidiale con le antenne, una resa micidiale perché sono fatte in vetroresina e sono caricate e allo stesso tempo escono molto molto bene. Quella è quella lì, quella è quella che c'è a Marco, è la mia, quella che ti ho fatto vedere a te, con la molla, tu invece non c'è la molla, però nel punto in cui si trova il mozzo va bene anche rigida così, non tocca, ma lo stile è uguale a quella che abbiamo noi. No, poi sapere quel barone ragione, ho visto quelle turbo 2001, ma ti pare che vuole mantenere una ragione in macchina. Il progetto Mari rende di più, non lo metto in dubbio sicuramente. E beh, Gandarini, 2 km di più di quanto posso arrivare io, ma devi mettere questo coloso, te ne staccia tutto quanto la cappotta. Cioè, per me quella che c'è io è ideale, come dimensioni, non te lo apprezzate né niente. Pensare non è che abbia grande resa rispetto a quella, non pensare, perché avevo fatto le prove, c'erano affiancate 2 o 3 macchine, loro con la P1800, qualcuno anche con la 1000, a parità di potenza io non perdevo assolutamente niente, né in ricezione né in trasmissione, eravamo tutti e 3 alla pari. Ecco che da lì è nato il motto delle antenne corte, delle antenne piccole, quando lo dicevo io, adesso non mi credevo. Però io prima di parlare faccio fatti, non parole. Quindi l'avevo già provato e avevo detto a suo tempo, guardate che queste antenne di vecchia generazione, tipo Lene, tipo insomma quelle di vecchia generazione, a queste nazionali avevano una tana forte. Adesso non ci credeva, poi alla fin fine ci hanno creduto tutti, quando a me mi sentivano uscendo da Perfua sulla litoranea per tempo e vedevo passare una bomba, e tutto lo ricordi bene. No, no, ma infatti per questo lo sto dicendo, io ne ho parlato sempre di quell'antenna, non sapevo che fosse simile a questa di adesso, dicevo come ti fai a riciclare, non a uscire ci puoi mettere anche 1000 watt e ti fai sentire, ascoltarmi, perché tu mi rispondevi, ci dai per sentire per cura, ti sentivo e mi rispondevi, per cui c'aveva anche una buona ricezione, per questo sto dicendo, la trasmissione puoi avere 1000 watt, però se poi non mi ascolti cosa serve, se ho 1000 watt e non riesco a ascoltare. Come il caso di Domenico, che a un certo punto poi lui ci sente a lui, però noi non sentiamo a lui, tu da viceversa, e quello lì volevo dire. Ecco, ha registrato il break, sì, ma infatti è quello che sto dicendo io, Roberto, il problema è quello lì, che quella tenere lì, come quella che c'è tu, come quella che c'ho io, sono sempre andate bene, sono di vecchia generazione, quindi fanno sì che la trasmissione vuole la ricezione. È quello che molta gente non voleva capire, però poi alla fine l'ha capito, quindi tutti sono alla ricerca di questo cazzo di radio, di antenne, che però non si trovano più. Io ce l'ho, me la tengo come te, te la tieni. Avanti Fabrizio, buonasera. Ciao a tutti, ciao Roberto, ciao Claudio, sono entrato perché sto facendo cose che stavo ascoltando, poi ho sentito Roberto l'altro giorno sono passato, scusa la classe ti interrompo, sono passato a trovare l'officina ma non c'è lì. A me Fabri, sulla mamma ci sono sempre. E dimmi una cosa, ma è vero che c'era la sessione d'esame? E per quello, di quello che ho pensato questo, lei va bene, c'è tuo padre, ho detto questo, chiamo il telefono, e poi mi sono dimenticato, ho dimenticato il passato di me, ho detto poi passo, poi faccio e mi dimentico. Capito, il 29 di questo mese. Scusa un attimino, te ti hanno dato già la risposta che c'è o tu hai fatto solo la domanda? Spiegami quello. La domanda c'è anche la lettera di convocazione. È strano, guarda, ogni anno che telefonavo mi dicevano no, non arriviamo al numero. Stranissimo mio, una cosa molto, molto strana, non è che non abbiano avuto delle direttive da su, dal Ministero, da Roma, che è strano, molto strano. Vabbè, cosa ti devo fare? Tanti auguri, speriamo che passi, io sono convinto di sì, perché già me ne sono accorto che sei preparato. Purtroppo anche volendo andare non sarei potuto andare perché le domande devono partire entro il 30 di aprile, per cui saremmo già stati fuori tempi. Magari un paio di settimane di studio avrei recuperato quello che ho studiato, però ormai lasciamo perdere, se Dio vuole. E ci proveremo a ottobre. Ok, riprendi tu Fabio, puoi far girare per Claudio. Ok, io ho ricordato, sono passato, devo dire che c'è ancora a fare la domanda, a telefonare, magari gliela accetta. Niente, io l'ho preparato, io già non ci può essere con lei, per non aprire troppo velocemente i libri che devo ripassare, tanto prendo quel libro e da domani inizio anche a riguardarlo, che fintino 2 o 3 settimane di tempo, giusto per rinfrescarlo proprio al momento, e poi speriamo bene, poi già l'hai visto come cioè, si è preparato. sono 29. Come le sono 29? 29 di ottobre, non so niente, no, la gente il 29 di giugno, non sapevo niente. Mi informo, guardi, mi informo. Allora, perché mai un presidente di commissione non sa che il 29 di giugno mi c'è l'esame? Anche io rimango stupito. No, cosa sbaglia la scia, prendo la lettera, anzi, ma noi siamo alla fine che sparisce, aspetta. Questa è una modulazione, Fabrizio, anche che ha fatto sta utilizzando. Guarda che io sto utilizzando un Galaxy Saturn. Capito, Roberto? E poi parlando, ho detto, vai, speriamo che quest'anno Loretta non sia penalizzata, ma con la Sardegna. E lei, vedete, ma poi la Sardegna è uguale alle altre regioni. Come a dire, non c'è trippa per gatti, capito? Chissà le cartelle che hanno preparato come sono, maledettiche. Perfetto. Allora, oggetto, esame di discussione della parte di operatore di stazione della Materiale. La signoria vostra è invitata a presentarsi il giorno 29 giugno 2012 alle 8:08, mincoglioni alle 8, che sono questo ispettorato territoriale della Sardegna, ministro dello sviluppo economico, in tanti di ambientarsi d'Italia, che non terra sarà così, dove era l'anno scorso, stazione della Materiale. E mi dicono potrei esibire la commissione, mentre presenti un diritto, un documento in corso di validità. Cosa ti ho detto io, Fabri? Alle 8 le 10 di ripartire alle 6. Noi sempre ogni anno partivamo 5 e mezza, 6 meno un quarto, per prendere un caffè, per fermarci, capito? E alle 8 le 10 di. Vai, Roberto. Già lo so, infatti, fino ad era con più calma, infatti un po' prima, se avevo consiglio, perché se è capitato come è capitato a me, si è trovato, vabbè, adesso nebbia non ce n'è. Quando sono andato un paio di anni fa, un nebbione, già ci ha fatto più di un'ora, un pezzettino per fare 40 km, non si vedeva a 20 metri di distanza, piano piano camminetti. Poi quel pezzettino di Marcomelli, mamma mia, un ristare Marcomelli. Ecco, ma con te che hai parlato tu? Cosa, Fabri? Con l'ingegnere? Con chi hai parlato? Con l'ingegnere? Come video? Ma non è possibile che hai detto così. Il presidente della commissione, ingegnere Giovanni Di Pisa, firmate la tua lettera. Tu di persona, bene bene, lo conosci? No. È il più grande rincoglionito che c'è in quel distretto, dammi letta, il più grande rincoglionito, se tu hai il modo, ma quello senza nessun problema, guarda, io penso lì, se tu hai modo di parlare con lui di una cosa, no? E qua c'è Roberto che ti può dire, ti può dimostrare che non sono balle, se tu gli dici, vediamo, ci penso. Lui non sta pensando a quello che stai dicendo, sta pensando ad altre cose, capito? Io lo so che l'ha firmata lui, perché è impossibile che non l'abbia firmata lui la comunicazione. Nonostante non ho capito come ancora le facciano firmare le comunicazioni di servizio, soprattutto inerenti alle sessioni d'esame. Non capisco, perché lui è in pensione già da 4 anni, Non capisco perché le firma lui, non capisco, perché lì c'è un dirigente preposto che deve firmare le comunicazioni, che deve firmare, perché a me, ad esempio, la mia comunicazione, la mia, del cambio nominativo, ed è proprio inerente a quando lui è andato in pensione, ed è datata 3/10/2005, quindi non mi sbaglio, lui è più di 5 anni in pensione, okay, no? Allora, è stata firmata il dirigente responsabile capo dottor Giulio Riccioni, il mio cambio di nominativo, dai, W0URT/IS0DFB, ok? No, il mio cambio nominativo da IS0 CDR a IS0 DFB, ero già IS0 dottor Giulio Riccioni, capito? Quindi lui non deve firmarle quelle cose, non capisco ancora come capo delle facciano firmare. Già portate le buste, che ti dice il nome, vedi, magari non ha manco firmata, sono già pronte, di lì ci mettono un timbro e vanno avanti così. Sì, tranquillo, guarda, tranquillo, sai, tutta roba prestampata, Fabri, dove il segretario d'ufficio mette uno scarabocchio, perché io qua nella mia, quando viene te la faccio vedere, c'è proprio la firma, non scarabocchio, la firma vera e propria del Riccioni, ed è il dirigente responsabile del Ministero delle Telecomunicazioni, distretto 6 per la Sardegna. Guarda, no, non ci sono dubbi, lui è in pensione da più del 2005 e ancora è in mezzo alle balle, lo devono mandare a casa perché il più rincoglionito che c'è in quel distretto non capisce un accidente. Io so se la fermata lui, vediamo un po'. Aspettava che ho aperto camera. Tu Fabri, devi pregare che lui non ci sia neanche come presidente di commissione. E poi ti spiego perché. Perché lui ha avuto sempre un debole per i Sardi e soprattutto per la sezione aria di Sassari. Questo te lo posso dire senza nessun problema. E chiunque l'allenatore sia all'ascolto lo sa perfettamente. E la battuta che ha fatto a me al telefono, che te l'ho anche detto, è sicuramente uguale, precisa e identica allo scorso, perché lui ci mette sempre lo zampino, sempre. Nonostante non ci faccia niente, lì ci mette lo zampino e vuole che le cose siano fatte come lui. Avrà santi in paradiso, non so che ruolo abbia, ma lui è in pensione, deve toglierci dalle balle da lì. Non lo so che... Vediamo, questa è l'ultima volta che ci vado in Sardegna, comunque se non passo questa volta, che sarebbe la seconda, me ne vado fuori. Questo anche paura, Jimmy, cioè, lo sai quando fanno le domande, io ci ho parlato, mi ho fatto spiegare alla luce, te sono bugiardi proprio. Vabbè, cioè, io sono andato nel 93 a prendere la patente, e non c'era neanche lui, c'era l'ingegner Tocco, che una volta la depressione si è tolto completamente dalle palle, non se ne parla più, lui è sempre lì, e c'era anche lui come vicepresidente di commissione, capito? Però Genial Tocco, quando la pensione si è tolto dalle balle, lui è sempre lì, non capisco il perché, non è niente, è in pensione, quando uno è in pensione, è fuori, lui non comanda niente, non è niente, invece tu chiami all'ufficio di competenza, ti risponde lui personalmente, capito? Mentre prima, quando era in servizio, quando era dirigente, come adesso c'è il dottor Riccioni, c'era la segretaria, aspetti un attimo, vedo un po' se in ufficio, ti metteva la musichetta, poi te lo passava. Allora risponde direttamente a Edo, come te li bidelli, lui è lì, è un bidello, capito? È un bidello. Sono proprio due mani, già. Scusate un attimo. Vabbè, è la pura verità, cioè, capito? È la pura verità. È la pura verità. Cioè, tuo padre quanti anni è in pensione? Sta nell'azienda perché? Perché lo volete voi, capito? Ma anche perché lo vuole lui, perché è un perno, è una persona che ancora regge l'azienda, che può darti consigli, che può aiutarti. Lui non ci fa niente, capito? Non ci fa nulla, lui non è niente, e ancora lo vedi firmando, facendo. Io tutte le cose ricevute dal Ministero delle Telecomunicazioni di Cagliari, non ne ho firme sue, non ne ho, capito? Perché se mi dovessero mandare un documento, io chiamo, dico questo documento non è valido perché è firmato l'ingegnere Biglio, l'ingegnere Biglio è in pensione, a me non mi interessa la sua firma, fatemelo firmare la dirigente, capito? Fatemelo firmare la dirigente, tanto è vero che nulla osta, ho chiesto assolutamente che mi venga firmato il dottor Riccioni, perché nulla osta è un documento valido di cambio di stazione, dove se a me mi viene un controllo, io devo dimostrare che sia valido. Il ragazzo è l'ingegnere Biglio, la Reca, sì, eri il responsabile, adesso non c'è più nessuno, quindi non deve firmare assolutamente nessun documento. Scusate, lui è lì, se veramente in pensione, lui sta lavorando come consulente esterno, capito? Quindi gli hanno dato gli incarichi, c'è cioè quell'incarico probabilmente a livello politico, allora è sempre lì. Non esiste lì, perché quello è un ministero, capito? Quello dipende da Roma, quindi al momento in cui lui è in pensione non ha nessun diritto di firmare nessun documento, e poi sia un consulente esterno, quindi può fare sicuramente al momento degli esami il presidente di commissione, ma come incarico esterno, allora sono d'accordo con te, ma tu a me non mi devi convalidare nessun documento, perché io mi incarico forte. Se a me ne arriva e non l'ho firmato da lui, lo rimando indietro con una lettera allegata chiedendo che mi venga firmato dal dirigente responsabile, che è il dottor Riccioni, perché il mio cambio nominativo, con tanto di decreto legge, con tanto di tutto, è firmato da lui, capito? È firmato da lui, è lui il dirigente. confermo che l'ha detto anche il Consiglio Fiscale, abbiamo un consulente esterno, purtroppo non hanno un sostituto competente su quel genere di cose, mettono a lui, dice, mettiamo a lui, non ve ne isolati, è così il discorso. Quello che mi stai dicendo tu probabilmente ha una laurea in economia e commercio, non si intende l'elettronica, mettono a questo perché non c'è un sostituto valido. Però ma ingessa, hai capito l'ingessa? Tu immagini che il 50% è calato, del 50% delle cessioni da quando è andato via il mio tocco, ma io ti parlo dal 93 a oggi, dal 93 a oggi quello è cristiano, ha ingessato tanta di quella gente e vuole che le cose vengano fatte come dice lui, per, proprio per far sì che la gente non passi più, capito? Non passi più a chi vuole lui. Ha capito, chi vuole lui, tutto lì il discorso, comunque a me non me la tutti nulla, io non ci devo andare più e non me ne frega niente, se a me mi dovessi arrivare, ti ripeto, il 98 firmato da lui lo rimando indietro e voglio la firma di Daniele Riccioni, dottor Riccioni, perché lui è il dirigente, c'è scritto il dirigente capo, ingegner, dottor Giulio Riccioni, quindi quella è la sua firma e quella deve essere convalidata nei documenti del Ministero, lui non può firmare niente. Cui, io ho chiesto delle domande, ho detto se c'era una banca dati, a me la palla che mi ha sparato, no, qua viene tutto direttamente dal Ministero, e c'è un computer che sceglie le domande, gli ho detto ma vai a ammazzati, perché le domande identiche, scritte come ce le avevano loro, almeno il 60% di quelle domande io ce l'ho in un coso caricate da un sito della Svizzera dove fanno gli esami. La cosa bella è che la stessa domanda te la rimetta, io ho avuto fatta in un paio di sedute, la stessa domanda precisa e identica, per cui lui lo dà di buono, computer, dopo la seduta successiva ti rimette la stessa domanda. Lui se le fa a modo suo, se le arrangia a modo suo e se le scrive lui le domande, riprendendole da queste cose qua. Vabbè, te lo posso garantire, è come te ce l'ho tu, perché io l'ho saputo da quella persona che tu ben conosci, no? Se non facciamo nome. L'ha detto lui personalmente, anzi non l'ha detto a me, ma l'ha detto al presidente della sezione nostra, capito? Ci sono le tabelle, i tabulati che arrivano da Roma, i tabulati per intero, loro si riuniscono 10 giorni prima dell'esame e da quei tabulati formano le cartelle dei quiz, quindi sono loro dove c'è sempre lui presente e vuole nel modo più assoluto che vengano messe domande e risposte più difficili e immaginabili di tutte quelle, di quei tabulati che arrivano da Roma. Lì la faccio una gaggata. Sì, è così, lui ci gode, sono di quei personaggi che godono quando fanno vedere la propria cosa. Io quando la telefonato mi devo documentare, cioè se tu sei così bravo, cacchio devi rispondere a botta e risposta, no? Mi devo documentare di quello che sta dicendo lì, sentiamoci domani. Tra bigliato, lui deve essere rigido, il signore. Aspetta, ho passato con 4:40, un pochino. Perché so perfettamente quello che dico e so perfettamente quali sono le magagne in quel posto, capito? Lui è fatto così, come hai detto tu, ci vuole forse nel vedere la gente soffrire o non capire determinate cose, nonostante per carità di Dio tutti quelli che vanno, i candidati, sono abbastanza preparati, però lui ci vuole a vedere queste cose. E l'ha detto scherzando, continuerà a farlo sia lui che tutto il suo staff, che una volta anni fa ha detto scherzando, ma io penso che scherzi ce ne siano pochi, che la città di Sassari battavano così come erano le animatori. Infatti un pochettino soffre di cose, di complessi di superiorità di questo signore qua. Ma cosa bella dico, come ti mai in boccia nessuno in Sardegna e tutte le altre regioni passano di media oltre 70-78% degli esaminanti passano. In Sardegna l'ultima sessione il 100% bocciati, così tutti i tonti sono risati. Questo qui è che bisogna fargli spiegare bene al signore. Non lo so. Non so cosa dirti, io so che te lo dico come sociali, l'anno scorso, proprio forse lo dicevi tu, dove c'era Fabrizio, non so, 2 anni fa, è stato fatto un esposto, proprio un esposto, delle sezioni del Comitato Regionale, dove hanno voluto vedere sia tutti i compiti dei candidati e sia tutte le cartelle dove sono state rappresentate le domande a risposta. soffrivano di appunto delle roba di PC, queste cose, ADSL, che tanto me ne frega a me. Io sono fatto una patente perché ho bisogno di parlare alla radio, quindi devo conoscere il sistema radioattistico, a me, dell'ADSL, di Discari, di Vodafone, a me cosa me ne frega, io non ho un problema, telefono, vengono dal sistema loro, mica mi devo mettere a sistemare. Quindi mettimi in condizioni di poter capire queste cose prima di metterlo come quiz. Capito? Lui si è difeso in questa maniera, per volere un po' la preparazione tecnica, sperimentale dell'animatore, ma di cosa? Della DSL. Cattiamo una puttana della DSL. Adesso purtroppo la gente è ignorante, non l'avete detto. Purtroppo è così. Ma non dico quelle le caravane, perché è capitata una seduta, mi ha detto anche sono fermato, tutti sono passati i cani e pulci. Poi di due sono diventati complicati, non lo so io. Sarebbe bello confrontare le domande che fanno a Roma o a Milano con quelle che fanno a Sassari e dire se avere come criterio di come si chiama, di sviluppo della domanda. Sì, ma in quel contesto lì io mi ricordo, doveva andare anche Franco Califo. Con Giovanni invece se n'è andato a pescare il giorno, sono fatto che ci aveva avuto anche lui, Renato, Giovanni da Sassari, non mi ricordo chi c'era, insomma, però molta gente del Campidano, dell'Ogliastra, eccetera, tutti i promossi, perché erano 26, 25 promossi, uno era proprio una campana, perché non c'era assolutamente niente, era tutto normative, codice Q, qualche domandina così su qualche antenna, domanda risposta sempre parlo, e insomma era facilissimo il compito, facilissimo. Dal momento in cui hanno fatto un'infornata di quel genere, no? Che tutti si sono passati la palla, andate, perché i compiti sono facilissimi, eccetera, ho visto che nella sessione dopo mi pare che erano 40-45, anche i babidutti. 38 su 40, capito? 38 su 40, e così sta portando avanti sempre questo sistema, capito? Perché evidentemente lui si è accorto che, e non va assolutamente bene, Io ti ripeto, l'ho esonerato anche come punto più vero, perché l'esonero sai qual è, quindi ho un perito elettronico, elettrotecnico, sempre industriali, oppure il diploma di radiotelegrafista di seconda classe della Marina. Siccome mi sono diplomato come radio, cioè mi sono congiurato come radiotelegrafista di seconda classe della Marina Militare, quindi avevo l'esonero anche come W0. Purtroppo non lo sapevo, sono andato e ho dato l'esame di W0, c'era anche Massimiliano, anche lui non aveva sia esonerato, invece non sapevamo niente, e sono stato promosso la prima volta. Quindi non me ne ha fatti nulla. La seconda mi sono preparato per la telegrafia e invece quando sono arrivato lì, proprio lui personalmente, che chiamava in ordine alfabetico, me non mi ha chiamato. Mi ha detto, ma che è successo qua? E ha fatto il mio cognome, mi ha detto chi è? Ha detto sono io. Come mai a me non posso entrare io? Lui deve venire in ufficio. Ho detto vabbè, andiamo in ufficio, no, sono andato in ufficio, ma è lì all'esonero perché era la telegrafista, quindi non partecipa alla telegrafia. Cazzo, mai chiesto, anche lì, vedi, mai chiesto nulla vostra, e mai chiesto nulla vostra, due mesi prima, perché allora si mandava il certificato penale, nulla vostra militare, insomma un sacco di documenti si mandavano prima. Cazzo, non l'hai visto che io mi sono fatto militare prima a Livorno, poi da Livorno sono stato alla Spezia, ero imbarcato sul Vittorio Veneto, da lì sono andato alle scuole allievi sottufficiali della Maddalena, sempre come radiotelegrafista, quando non ti accorgi non mi puoi mandare una lettera a dire che lei non, così mi sarei, non sarei neanche venuto a Cagliari, no, è un ignorante, è un imbecille. Esatto, purtroppo. Le persone ti ho detto che sembra che ci godano a farci vedere superiori, cioè superiori per conto, secondo la testa loro sono superiori, la testa mia sono delle persone infelici, uno che come quei maestri di scuola che piccano i bambini, che alzano la voce, ma la stessa cosa, noi siamo gli scolaretti e loro sono i coso, cosa dici, le persone preparate, non lo so. Guarda, Fabrici, sì, yes, so. Stai ascoltando. Allora ti dico una cosa, ma lo dico qua perché non c'è problema che se l'ascolto. Tu immaginati che noi, dopo ce l'ha fatta convalidare. Lui non ha fatto convalidare il noto rappresentante della sezione di Sassari, hai capito? Ha messo di nuovo quello che tu conosci, capito, di Cagliari, a chi non ha voluto vedere la sezione di Sassari. Ma sono su questa sezione che ci sarà, non so se ci vi tutto, ma te lo passerà anche da Leo. Calcolare, quindi se c'era l'equazione la facevi, la dovevi portare. procedimento di coequazione l'avevo iniziata, però non sono riuscito a chiudere, non mi ricordo perché, perché c'era un calcolo che non mi quadrava, quindi stavo lì, gira che mi gira, aprivo e chiudevo, e con questo che devi lasciare la brutta, perché loro si devono accorgere quali sono gli sbagli che tu stai facendo, quindi evidentemente lasciando la brutta attaccata, loro vedevano quali erano le tue correzioni, quindi capivano che tu il procedimento lo sapevi, e si passava, qua no, e con questo l'ingegner Tocco passava, non ti voleva vedere a testa bassa, sempre a testa in alto, perché se no si metteva a voci, perché pensava che stavi copiando, capito? Però passava, e se ti vedeva in difficoltà si fermava, qual è il problema? Come mai fermo lì? Ingegnere, non riesco più ad andare avanti, mi sono bloccato, non ho capito, vabbè, ripasso dopo. Invece di quella tonda metto una quadra che forse è meglio, cazzo, vai dammi, e via, ripartivi, quindi aperta quadra, rifacevi il calcolo, insomma c'era un aiuto, questo aiuto non te ne va, ti sagameggia e buh. Comunque, quanto può servire aspettare e basta, altro non puoi fare, tra non solo. Quella è proprio fuori, cioè qui in Sardegna è vero che come l'altra volta che non bocciamo troppe, non ci torno più qua, vado fuori direttamente, vado per carta anche a Genova, dove ho fuori. Ma io te l'ho dato l'input e poi sai quello che ti ho detto. Le città favorite sono quelle che ti ho dato io. Poi vedi tu o parli. L'importante è che, questo te lo posso garantire, se lui si accorge che tu sei veramente preparato e che quindi non può darti mattana, tu stai sicuro al 100% che sei promosso alla grande. Se lui si accorge che tu ti indegni o che le fai qualche domanda, ti consiglio di non cercarlo. Che le fai qualche domanda così a dubbio e lui dice, questo non è preparato, questo non è preparato, come va a correggere i compiti, ti trova il pelo nell'uovo come ha trovato Roberto. Dimmi Roberto il calcolo tuo. Cosa lo sa Fabrizio, se lo risente, mamma mia. Più ci penso, ormai mi ha già dimenticato, dai, non entriamo in merito. Ma l'ha fatta rivenire l'idea del corso, Fabrizio, non si stava neanche pensando di questa della patente. Mi meraviglia che stiamo facendo un esame, non so quanta gente ci possa andare, perché a me mi avevano detto che se non c'è il numero di legge non possono fare niente. Facevano un all'anno perché non le potevano fare a meno, però che strano, avrei voluto capire quanta gente ci va a questa sessione. Ecco, te lo dirò. Comunque, a chiamare ce lo dicono quanto siamo, viene a chiamare. Capite, che apparato sta utilizzando? Il microfono mi pare dal suono tipo un coso, un MD più 4, più 5, così. E l'apparato cos'è? Questo è un Galaxy Saturn con l'MD più 5, e una piccola modifica sul modulatore che ho fatto. Aspetta, si incastra sempre, toccato una piccola modifica sul modulatore. Era un set però un po' metallico, là. Mi piaceva più l'altra solita che usavi, vabbè, stavamo parlando di cose diverse, qua stiamo parlando di giocattoli contro cose più avanzate. Beh, io questa già c'è bene, forse da te dipende, sarà che cosa, anche quanto voglio dalla vicinanza, poi dipende da che apparecchio stai usando. Vabbè, pare che già sto usando qualcosa di carino, diciamo. No, parlo a te che ti sentivo meglio con l'altro genere di apparato quando uscivi con quello simile al mio, dai. Ho capito, no, ma dipende da... Sì, vabbè, io voglio essere diverso, sto usando questo perché mi piace. In genere lo uso così, che se non piace un pochettino con l'effetto camera, che spinge ancora di più. Vabbè, qua non so, la poli NB dal 44, poli NB. Qua è una favola, Fabrizio, è spettacolare come radio, vabbè. No, non mi sono spiegata, non mi sono spiegata bene, la radio è potentissima, forte, tutta quanta, però non è naturale come l'ascoltavo con l'altro tipo. Questa è una radio da combattimento, sicuramente si fa sentire fortissimo, niente da dire, però come tipo di modulazione mi piace la più larga, sicuramente è molto invidiata da un bel di gente questa radio, perché è bella piena, potente, alta, niente da dire, però come precisione, parliamo di naturalezza, era migliore quell'altra, dell'altro genere di apparato, mi riferisco solo a quello. Poi un bel di gente l'aveva voluta una radio del genere. A lui gli piace la cosa più bassa ma più corposa. Sì, a me piace la voce tipo Alberto Lupo, ma è compreso. Ascolta, che differenza noti dal 440? Io ho cambiato, non te ne sei neanche accorto. Adesso sto usando il 440, poco fa stavo usando il 140. Più forte quella del 140, più alta, questa va meglio, no? Scusa, qua, mi hanno chiamato un attimino, non ho sentito quello discorso. Scusa un attimino, fa rimasto. Ehi, no, questa è più alta. Questa è più alta quella del 440. Ehi, è qui più aperta, ti ho detto. Quella del 140 è più... c'è solo la parte bassa, mi mancano la parte alta, questa è questione di gusti, come questa, questa qua invece ha molte parti basse. Anche questa è bella, questa è bella, questa è la 140, è bella lo stesso, è bella. No, io non mi sono mai ascoltato 440, mi hanno, non ho mai chiesto controlli, niente, intanto lo so, la mia modulazione qual è. Però pensavo spingesse un po' di più il 140, visto che c'è l'MC80. Dopo fare le prove anche con cose, ma a me mi sono accorto, non è cambiato, mi sono accorto tutto questo a spingere di più. E questa è bella come modulazione. No, su questa io mi sono ascoltato, però non ho mai chiesto pareri a nessuno, capito? Roberto, te lo sai, io modulo sempre con queste radio, posso modulare anche con il Tane più 3, con Savelta, con... L'MC100 sicuramente mi dice che sono troppo forti, però queste fanno bene. Hai capito, amico mio, come funziona? Io non la concepisco, tanto è vero che ultimamente, all'ultima riunione che c'è stata, numero di avventori, questo problema nelle varie avventori l'ho messo, tra, cioè vi rendete conto che abbiamo a Cagliari un membro di commissione che è in pensione da più di 2005-2010, da 7 anni, e continua a stare lì, a comandare, a fare, a intromettersi nelle cose che non le competono. Nessuno si sa spiegare il perché, capito Fabri? Nessuno si sa spiegare il perché. Non so cosa dirti, fra. Adesso vediamo. Speriamo che questa volta sia più semplice. Per esempio, se una domanda è umana, dai, se no è un casino. Se manca una domanda, che ho fatto giusto, forse sono stato l'unico che l'ha fatta giusta, quanto ho capito. Quello dell'antenna di Marconi, che cazzo, qua, là, è un bel trabocchetto, perché c'era effetti diversi o poco qua memoria, ma Roberto se la ricorda. Una poteva sembrare di raggiamento, l'altra sembrava mezz'onda, l'altra sembrava qua. Cioè, guarda che alla fine ognuno, cazzo, poteva sembrare tutte e tre giusta, nel senso che era molto, poi io l'ho fatta giusta la verità, però poteva sembrare molto, cazzo, era indubbioso, cioè tutte domande tra bocchetto, ma cazzo, stai facendo un esame pubblico dove ho esco promosso, bocciato, faccio un concorso pubblico, stai facendo devi vedere se io sono in grado o non in grado di fare o di usare le radio in maniera corretta, quindi un po' di normative quelle che si usano per il comportamento che devi avere, un po' di codice Q, quelli che usi, cioè vedi un attimino, fai un po' di radiotecnica, perché ovviamente se devi essere in grado di montarla, smontare una stazione, di fare una modifica sull'antenna, fai un pochettino per capire se sei in grado di fare, e soprattutto in un periodo come questo che c'è una crisi impressionante che sta morendo, no? Perché non è più come una volta la radio, e invece no, cazzo, domande tipo la patente, cazzo, trabocchetto per cercarti di crepparti, ma vaffanculo. Sicuramente hai trovato quella domanda di Marconi, la prima antenna autocostruita di Marconi, a me era capitato, io l'ho messo, però non c'è, non specificavo un quarto d'onda, mezz'onda. Io allora nel 93 parlato di un pallone aerostatico, che aveva fatto a giusto, adesso non me lo ricordo, Roberto se la ricorda. E quella, se mi ricordo come l'ha formulata, però cazzo era equivoca, capito, veramente equivoca, era fatta proprio apposta per metterti in inganno, che ma tu devi capire, soprattutto in periodo di crisi come questo, che la radio per un male sta morendo, non è come una volta che prima c'era una varia di CB e tutti volevano radioamatori, allora devi scremare, adesso ho capito chi si vuole per affacciare al mondo della radio, tanto non sono più ragazzini, ma è tutta gente che non minimo dei 40 in su, capito, anche voglio dire minimo, siamo tutti più grandi, da 40 in su, e quindi c'è gente che non è che si compra la radio per giocare, cerca di capire se sono in grado di poter, per, tanto se sono persone serie, eccetera, se sono in grado di poter usare la radio, cioè non lo so, comunque mi aspetto Roberto. Aspetta, già te l'accetto la domanda, che io ce me l'ho tutte conservate, le domande, quelle che ho fatto, degli esami, ce l'ho tutte quante. Era, mi sembra che tipo di antenna c'era un quarto d'onda, ma esattamente non me lo ricordo. Aspetta, continuate con l'accetto. La prima antenna verticale era un quarto d'onda, quella di Marconi. Se ti parlava di antenna direttiva era una filare, ma ai tempi miei non specificavano né mezzo d'onda né un quarto d'onda, però la prima verticale era costruita era un quarto d'onda sicuramente, quindi lì insomma bastava calcolare il tempo e un po' si arrivava, però ha ragione Fabrizio, nel senso che a cosa servono queste cose, non servono assolutamente a niente, capito Fabrizio, non servono assolutamente a niente. Ma prima di andare tu nella sessione, due anni o tre anni prima di che andassi tu, c'era proprio qual è la configurazione esatta, me la ricordo perché me l'ha detto il presidente nostro, qual è la configurazione esatta, distanza, addirittura parlava di distanza millimetrica di una linea DSL dalla cabina del di sezione, una cosa del genere, di aiutami, cioè di dove praticamente arrivava il segnale. Al momento praticamente dell'allaccio, te lo spiego il parole povero, quindi che distanza c'era dalla cabina del segnale di una linea DSL al posto di allaccio, una cosa del genere, cioè ma stiamo scherzando. Che cazzo ne so io? Ci possono essere 20 metri, 10 metri, 15 metri, 5 metri, cosa ne gioco io? Cosa gioco? Un operatore della Bere come io? A cosa servono? A cosa serviva questa domanda? Oh scusate, Fabri, un attimo. Dimmi. La domanda era questa, a me. Antenna Marconi, da cosa è costituita? Risposta erano semplice di polo a mezz'onda, la lice fine da tre quarti d'onda o antenna un quarto con piano di terra fittizio? Queste, Claudio, erano le risposte. E io ho sbagliato quella, un quarto d'onda con carico fittizio, mi sembra. Io non ti con la grande, sono chiaramente l'assistito, però tutti i gatti ci hanno detto, a me anche mi ha messo in equivoco quel tipo simpatico, ti ricordi quello che era mai convinto, no, metti semplice di polo a mezz'onda. E infatti questa è una domanda equivoca, io non avevo risposto, poi attualmente metti sono sicuro, e mi ha fottito. Era, vabbè, la stessa domanda che avevano fatto negli anni miei, uguale. Capito, solo come ho detto a Fabrizio, non c'era mezz'onda, quarto d'onda, eccetera, però era un dipolo filare quello che lui ha costruito come prima antenna da piano di terra, era quella lì. Cioè, tutte le domande me le sono tutte scritte, quelle che c'eravamo. Vabbè, c'era quella che Fabrizio ha sbagliato, tutti si è fuggito con le domande di normativa, però sei passato di brutto. Ogni quanti minuti va ripetuto il nominativo in un ripetitore, poi c'era il rapporto avanti e indietro, trasmissione digitale, ogni quanto tempo bisogna ripetere il nominativo, fasamento tra corrente e tensione, cosa c'era? Vabbè, quello era facile, il significato di R dell'alfabeto fonetico, poi neutro, con che colore dove deve essere quello, a me mi aveva fregato una volta, è neutro, dove lo colleghi qua, nella, come si chiama, carcassa dell'apparato. il nero formaccia lo volevo collegare, in culo glielo devo mettere. Ogni 10 minuti deve essere il nome attivo. Io i giorni verdi ci vado nella massa, nelle sedi delle radio, non lo devo attaccare secondo loro. No, il neutro, stavo parlando della massa, anche a me mi ha fottuto, questa volta non mi ha fregato. Il neutro è una cosa, la massa è un'altra cosa, non confondiamo. Il giallo verde è la massa, e lei ricollegare all'altraio l'apparato, mentre il neutro non vuole mai collegarsi all'apparato. Infatti a me la prima volta che era andata all'esame era passata una domanda, la stessa domanda, e hanno sbagliato, però questa volta, siccome lo sapevo, non mi ha fottuto. Non ti avevo capito, neutro di cosa? Io ho i gialli verdi attaccati alle casse delle radio, che sono praticamente trascinati a muro con una piattina di rame per far sì che le scariche elettrostatiche della cassa stessa non mi diano la scossa. Altre neutri io non ne ho mai trattato, cioè te immagini quattro di domande che mettono, per carità di Dio. Cos'hai messo tu, Fabio? Ogni quanto devi ripetere il nominativo? Ogni 10, tu cosa hai messo? No, ma mi ricordo una cosa sbagliata, per esempio, ho sbagliato quelle domande caratteristiche, perché infatti mi ha che mi guardi quelle lì che non è sola, quelle lì, e poi la neutrofase e massa, già lo so dove sono, vanno collegati, no? Che quella roba lì ha fregato, non ricordo cosa ho risposto, anche le sbagliate, quella lì proprio sbagliata. Proprio sbagliata, anche quella che hai sbagliato tu, che è quella K, non mi ricordo, era quella cosa che chiedeva, capito, che era prima la K, poi voleva dopo la K, però voleva vedere che cazzo era proprio ingannevole quella, perfida. Quell'altra, con quanti simboli vorrebbe disegnato per una emissione della larghezza di banda di 14,84 kHz? Io avevo scritto 14K.83, no, il 13 non si deve mettere perché non è sì cifra significativa, deve arrivare fino a 80, fino a 12, questa è una domanda equivoca. Guarda, a crepatura l'hanno fatto. E poi quell'altra domanda, la banda passante di un circuito risonante, punto 3B, è situata da 6,9 a 7,3 MHz, quanto è il fattore di qualità? Questa l'avevo fatta giusta perché sapevo la forma, cioè c'è una domanda del genere, mi sa. Vabbè, ma è sempre decimale zero, ma di chi non parlavano? Loro si davano questo valore, 14,83 kHz, e identificarlo con i kilo, col K, cioè con i prefissi. Io ho scritto 14K83, il purissimo fosse giusto la risposta, invece no, dovrei scrivere 14K80, dice 3 non è significativo perché sino ai decimi si arriva con il suffisso, come si chiamano queste lettere che si mettono avanti, il K, mega e il giga. Ma scusa scusa, quando noi andiamo a trasmettere una crepa è sempre decimale zero, quando tu trovi uno a 7070.83, io, perlomeno io, adesso mi metto, guarda che sei spostato, mettiti a decimale zero, proprio perché sono cose, infatti se tu guardi proprio l'ultimo decimale degli HF dove c'è scritto kHz, devi andare a decimale 0, a meno che non stai facendo una prova e ti metti a decimale 0,83, 0,81, 0,85, 0,86. No, il discorso proprio in kHz devi andare a decimale 0, quindi lì ti sei fottuto. Seguendo la logica tua è giusto, però qua noi stiamo parlando di termini di frequenza, come una resistenza quando c'è scritto 15K83, io quando vado alla resistenza dico 15K83, dico così quando vado a comprarla, nella resistenza dice no, il 3 non si mette, dice non è cifra significativa, dice, vabbè. L'altra volta mi è capitata una domanda 23,51, indicare le cifre significative, all'opposto hanno messo la domanda, cioè fanno domande di questi generi qua, mi resta, poi qui ne era una che deve aspetta un attimino, poi come funziona un circuito a superoteolinea semplice, cioè ti fanno anche domande del genere, poi ti fanno un grafico, dicono cos'è, che sfasamento c'ha questa tensione corrente, e ti dico, ma domande molto specifiche per gente che ne sa, non per gente tipo noi che siamo degli appassionati. Sì, ma questo Fabrizio mi corregge, sto sbagliando, quando ad esempio io mi è capitato di andare a prendere un componente, dandole la sigla, ho visto che c'era un 0,84, mi pare, 0,84. alla grande, dove le è capitata una cartella che non ha capito un Kaiser, capito? Nel senso che c'erano formule ADSL, misurazioni di linea ADSL, si è inceppato, capito? Quindi spero che lo sia così anche quest'anno e che almeno Fabrizio, come interessa Fabrizio, ritorni vincente, con la speranza che scenda un accidente a quel pezzo di uccello e che non ci venga a fare il Presidente di Commissione. Vero Fabrizio? Adesso vediamo, non so dove dici qua. Vediamo un po', io vogliamo andare, non lo so, adesso vediamo, ma sento nuovamente, infatti questa volta nemmeno mi ammazzo a studiare, no? Mi fa la mia preparazione, se va bene, bene, poi tutte queste cose, tante, chiesa, basta, io non sono motivato, vado, guarda come deve andare, non ne frega niente, capito? Guarda come deve andare. Infatti, quello che ne ha fatti, un hobby, non pensare che qualcuno possa dire il contrario della tua non preparazione, è proprio il sistema sbagliato che esiste in quel posto, capito? A meno che io non sia più donto, che con la bocca sia molto bravo, poi con la penna è un deficiente. Ma questo non è il tuo caso perché ti conosco personalmente, quindi so che sei abbastanza preparato in materia. Però ti giuro che è veramente il sistema lì che è sbagliato, poi con la presenza di quell'individuo io penso che anche questa volta ci sia veramente da lottare tantissimo. Mi auguro di no, con tutto il cuore, ma spero di no, veramente spero di no. Però la presenza a me di quell'uomo lì mi irrita moltissimo, perché non ha nessun ruolo, perché è messo lì per non so per che cosa e continua a firmare, a dirigere, a comandare, ma vai fatti fare in culo, cioè togliti a mezzo ai piedi e fai lavorare la gente che sa lavorare più di te o quanto te, ma sicuramente un modo di fare diverso dal suo, capito? Quindi può agevolare, non può agevolare, ti può dare una mano o meno, ma lui è proprio secco, lui è lì, vuole visto come sta, sempre a testa alta, con questi occhi che ti guardano, cazzo, sembra che ti vogliono uccidere, sempre squadrando tutto, ma che non ti impicchi. Fabio, non sai cos'è il problema? Che ti mette un bel in difficoltà, secondo me, nelle domande, perché c'è la domanda giusta, poi c'è la domanda sbagliata, che è evidente che è sbagliata, e poi c'è l'altra, che è una domanda che potrebbe essere, come dicono loro, giusta al 50%, perché io quella domanda che ho sbagliato, quella sul rendimento, il risultato, facendo la formula mia, era giusto, come quella che c'era nella risposta. Se si è presentato un altro risultato rispetto alla formula mia, avrei detto no, la risposta giusta era la numero 1, anziché per dire quella lì, la 2. Invece no, ti buono il muro, con l'altro ti mettono anche i dubbi con queste risposte qua, equivoche. Sentito? Sì, ho sentito, non ci puoi fare niente. Aspetta, la prossima volta, secondo me ci conviene, se per caso non faccio questa volta, ci conviene metterci d'accordo loro e se andiamo a darlo fuori alla prossima sezione. Ma se no per il momento che ci chiudiamo dentro, cacchio, blocchiamo tutti, come ti ha fatto Guido che entra da Equitalia. Ciao Uzi. Guarda, stai diventando una cosa, io quando sono entrato la prima volta, ormai adesso ci scherziamo, ci andiamo a ridere, tu sei stato la prima volta, ma io quando sono andato la prima volta ho detto, cacchio, ma cosa stiamo facendo? Una patente per i sottomarini nucleari per sparare i missili intercontinentali, perché sembrava, con tutte le cose che ci hanno chiesto, documenti, la firma, controfirmare la brutta, chiamare a uno per prendere la busta, cioè sembrava che stavamo facendo una cosa, quando entri in un coso, in un cavo di una banca, di non so quindi, noi stavamo prendendo una patente da diamantare, non è che stavamo facendo un porto d'armi per dire ci sono dei rischi e cose, qua cos'è, ti mandano la portante, cos'è, ti disturbo, cosa del genere, mettimi le domande più sulle normative, quello sì, e obbligami a studiarmi tutte le normative, che non posso andare fuori banda, non posso usare le potenze, non posso fare certe cose, quelle, invece di normative vanno butto. Codice Q, una domanda ridicola, un alfabeto fonetico e una abbreviazione internazionale, e più quello ogni quanto lo devi dire nominativo, però delle potenze. queste, le bande di frequenza, di quelle non hanno scritto niente, non c'era neanche una di quelle domande. Oh, ma c'era quell'ufficiale o sottufficiale dell'esercito? Sì, c'è sempre, ma che disoppa qua, qua, che ti viene così a farci la fotografia, sembra, a mettersi l'immaginetta, non vedrà nulla, non conta nulla. Mi dici chi conta è solo quel Pizzalis e questo Di Biglio, e boh, tutti gli altri sono figure inesistenti, vengono, si fanno la chiacchierata, ogni tanto se ne escono fuori e in quel momento lì magari ti puoi mettere a conversare, a copiare o a dirti qualche cosa. Era meglio si veniva a battere l'azzurra l'esame di stato, cioè di radioamatore, che non ci fosse stato nessuno a condizionarmi, perché quella domanda la maledetta che mi ha detto quel balotto mi ha condizionato, infatti di lì mi ha fottito, se no mai senza quella risposta sbagliata non sarei passato, perché ho fatto 17, quanto era il minimo? 18, 17 e 75, Fabrizio lo stesso, più o meno uguale a me, uguale, no Fabrizio? Sì, poco meno di 18, ma anche lì uno, voglio dire, anche, ma non è paura, che danno è un'esatta, che non metti in una, anche quella che è un po' equivoca, darla esatta e poi 18,50, vaffanculo, e paditi, due sono passati, invece no, cazzo, per poco, tra, e poi, io soprattutto avevo superato e poi avevo sbagliato anche la domanda e sono tornato indietro, metti ne una, più uno, poi vedi due, no, giusto per non farla così sporca, cazzo, perché gli altri dovevano, cazzo, gli altri sono un bel male, ma io un po', che finché eri qui, ma eri 17 via, ma là c'è. Lo so, ma poi se fossimo un po' più intelligenti considerando la situazione, io dico come esaminatore, come l'abbiamo fatto in tutti gli esami, chi è diplomato, chi ha fatto il diploma, si avvicina a pagina nel banco e dice sei sicuro di questa risposta, ti mette in dubbio, a quel punto poi magari ti, non dico darti la risposta, oppure dice attenzione a quello che stai scrivendo, facci bene, cioè ti può dare anche delle informazioni così, ma c'è nulla, certi momenti mi ricordo la seduta precedente, anzi di più, mi ha messo anche di difficoltà il tipo, quando gli ho fatto la risposta no, ma lei queste cose la domanda dovrebbe fare, questa domanda, cioè pure se ne ha ancora più di più, allora lì ti vengono tutti i pensieri più strani e perdi la concentrazione. Oh, Robert, dimmi tu. Ma senti perché hanno bocciato Franco Manchia? E perché? Non c'è più andato Franco del Tavolo. Ah, glielo avevo detto prima di entrare, fra, mi raccomando non fare cancellazioni, perché ha fatto 4 cancellazioni praticamente. Cosa è successo? Ha scritto matita, no? E nella cartella scriveva matita, poi cancellava e quando era sicuro alla fine di tutto rileggeva tutto, rifaceva tutto e ha scritto appena. No, non si fa così. Guarda, io ho fatto un metodo che me l'ha detto uno, che è il metodo migliore, Fabrizio, se vuoi un consiglio d'amico fallo anche tu. Ti prendi la brutta, un pezzo con la carta che ti scrivi tutte le domande, metti domanda numero 3, numero 4, 5, 3, metti tutte in fila e ci scrivi la risposta A, B e C a fianco. Poi a fianco alla risposta ci metti sicura, ci metti ok, questa a dubbio ci metti 50%, questa non la so, e te le rispondi tutte le domande a quelle che sa. Poi quelle che sa è proprio il dubbio le cancelli e le elimini. E io ho fatto quel discorso di. Poi, infatti, quando voi eravate tutti finiti, io sono stato l'ultimo a consegnare in assoluto, e mi ha detto, ma lei non ha scritto niente, come mai, mancavano pochi, no, no, io adesso devo ricopiare, me le ho tutte scritte, e poi all'ultimo momento, proprio alla fine, me le sono trascritte, proprio quando ho fatto tutto il ragionamento, ma è scrivere direttamente nel foglio, sino alla fine io me le ho tenute di fianco, Fabri, se vuoi fare un discorso logico, fai così, è anche statisticamente importante, perché tu ti fai tutte le domande che hai risposto, sono 30, tu devi rispondere 18 esatte, così vedi, queste io ne rispondo, quindi io avevo calcolato che avevo risposto 23, ne avevo un paio di dubbi, ho detto ma anche se sono sbagliate con la media, col calcolo della media ci riesco a rientrare, perché ho detto almeno 20 sono giuste, e invece mi ha fregato quella domanda, quella del coso, del rendimento, se no io ero sicuro di essere passato, perché il risultato corrispondeva alla forma, io ho fatto il calcolo con la calcolatrice, mi corrispondeva, per cui se avevo un consiglio Fabri, fai come ti dico io. Scrivi all'ultimo momento poco prima di andare, ti prendi il foglio e ci scrivi tutto l'elenco delle domande e accanto ci scrivi A, B o C. Quella che sei sicuro al 100% ci scrivi ok a fianco e poi le altre metti mi oppure 50% me la ricordare e fai l'eliminazione e ti fai conto della media dei punti che c'hai. Io pure diciamo che quello sì, io poi trascrivi comunque subito, secondo me le domande che sei sicuro che sono esatte, dai, quelle le trascrivi subito, ce ne sono alcune che sei sicuro, io infatti faccio così, vado avanti, veloce, veloce, quelle che sono sicure al 100% le scrivo subito, e poi quelle altre ci ritorno 5, 5 e me le rilego, però quelle veloci le scrivo subito e inizio a scremare. Sì, ma non scrivere mai, comunque in ogni caso Fabri, aspetta, non succede niente, te lo scrivi un pezzo di carta col foglio che ti danno loro, non succede nulla, perché è capitato, ti ripeto, quella domanda che ero sicuro al 100%, l'ho scritta, e poi magari fai conto che viene il tipo e ti fa, oh guarda che è sbagliata quella domanda, non la puoi più cancellare, ne puoi fare solo una di cancellate, vabbè, cancelli quella, e poi magari ce n'è anche un'altra, e ti dice, per dire, spacciando le voci, magari uno ti dice, guarda che codice Q quello non significa così, e tu l'avevi già scritto, che eri sicuro, tipo quello dei 10 minuti, che tu avevi scritto 5 minuti, invece, e tu magari sei sicuro al 100%, meglio sempre dire alla fine, perché magari c'è qualcuno che ne sa più di te, e ti può dare un consiglio, naturalmente, da te, tanto valutare se quello che ti ha detto di risposta, però, con la tela di Marconi, se fossimo stati insieme, tu mi avresti detto la risposta giusta, e io ti avrei dato il codice Q, tu magari hai scritto quello del codice Q, una cosa che non si entrava mai, io ti avrei detto, Fabri, guarda che è sbagliato, che è così, per cui, prima di scrivere, hai detto proprio alla fine, fine, come ho fatto io, perché fare le correzioni è un problema, te l'ha dimostrato Claudio, a Franco Manchia, l'hanno bocciato perché ha fatto quattro correzioni. Lo so, ma infatti questo vediamo, non so proprio ormai, no, vediamo anche quello sì, quello vero, vediamo, non so, vediamo un attimo, io ancora aspettare e vedere un attimino. Casino, vediamo, sperando che sia semplice questa cosa, ma speriamo. Ai massima non era difficile, Fabio, appena l'ho visto ho detto sì, abbastanza, l'unica puttitura che c'erano quelle domande al bocchetto, due ce n'erano maledette, ma ne puttito, perché se no io al 100% ero sicuro di passare, quelle due domande che ero sicuro che sono passate, che erano giuste, si sono dimostrate sbagliate, perché io non ho risposto ad altre 3 o 4 domande, io su 30 ne sapevo 28, due non le ho risposte perché proprio non la sentivo, però adesso, non me la sento quelle due, e poi mi ha puttito quella di Marconi, che di lì quello scemo mi ha detto, metti di la mezz'onda, metti di po', io non la sapevo, quello sei sicuro, vabbè, adesso mettiamo un'altra in più per alzare la media, invece è stata quella che mi ha abbassato la media. Ok, riprendi qua. Così è, dovete essere attenti a coordinare bene queste cose, no, Franco era incazzato nero perché Franco non avevo dubbi, siamo per una persona che lavora su quel campo, quindi non ha temuto neanche la parte PC, niente. L'unica cosa che quando ha consegnato la cartella non ho chiamato direttamente, perché sono accorti delle cancellazioni, che gli ha detto quel testa di uccello che la sua cartella era nulla, capito? Che la sua cartella era nulla, la volta di te, non devo dire nulla. Nulla perché le ha cancellato, le cancellazioni non sono messe. Si regga il regolamento, figlio di una grande mignotta, la cazzata lì della Franco, lo ricordo, è uscito fuori sbattendo la porta, ha mollato tutto, dice andiamo, dovevo andare a pranzo, avevo appuntamento con degli amici degli amatori, niente da fare, ho voluto partire, mi ha detto non ci vado più, quello è un troiaio, non è cosa per me, non c'è più andato, infatti, anzi. Non solo non c'è più andato, si è venduto tutto, non c'è manco più una radio. È vero. Prego. Avanti, prego. Buonasera, da questa parte del Lucino, che vi super saluta con la buonasera. Sì, buonasera, in compagnia di Roberto, Claudio e Fabrizio, avanti gli altri due, vai Claudio e poi Fabrizio. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato. E così è, vabbè, comunque. Se vogliamo ci sopra, speriamo che non sia così, e se no pazienza, già non mi vado una malattia, va bene. Mi chiedo 5 minuti, perché 5 minuti di quell'X, devo prendere la 9, sono già le 4 e poi rientro subito, avanti Fabri. Claudio, prima di andare devo dire una cosa. Dimmi Giuseppe. Tu sai che ho incontrato a Città Mercato? Torino. Tonino Cavazzacchi. Eia. Sempre vivo, Tanto ho visto dopo una marea di tempo i figli, tanto poco sono diventati alti. Tanto l'altro, oggi ha compiuto gli anni la femmina, 28 anni, e l'altro ne ha 33. Tanto io me ne ricordo quando ero minorette, tanto l'ho conosciuto i piccoli, mi rigiro, ma questi sono i miei figli, capo io, ho cercato come passa il tempo. Tu scusate un attimo, io devo chiudere, dai, saluto a tutti quanti, ciao Claudio, Fabrizio e Giuseppe, ci vediamo alle prossime, dai, se ce l'ha fatto stasera, se ci siete, se no alle prossime, QRT da parte mia, ciao ciao a tutti. Ciao Robè, ci aggiorniamo, dai, intanto già sono in ferie ancora, avanti Fabri. Sì, prendo io, sto provando, avevo discorso, 5.9 carburo è questo, sto provando a connettere la radio al PC, solo che ho cambiato PC, ho scritto il programma nuovo e mi sembra che adesso provo quello precedente, che non me lo sta facendo, casino, esegui, e sto facendo altre prove, e l'avevo bruciata quando si era collegata con quella Skype, adesso ho cambiato PC e voglio provare a collegarla con i PC desktop da tavolo, che so. 850. Voglio collegare l'850, prima non l'avevo collegato, mi può servire adesso collegato. Infatti quando sono solo temporali conviene spegnere tutto. C'è proprio in questi modestivi, mi fa bene, non ti dimenticare. Corrente a zero, sovravvita a zero e antenne possibilmente staccate, in modo che non abbia nessun rientro. Dai, datemi 5 minuti, Giuseppe, ci sentiamo subito che devo prendermi la medicina, dai. Ti chiamo subito, ok? Figlia, non ci sono problemi, dai, vai, vai, non c'è problema. Avanti, Fabrizio, con la buonasera. Ehi, buonasera. Giunci, ma tu ci vieni a Cagliari a dare l'esame? Esame? Siamo studiato, Fabrizio. Magari, potessi, sarei venuto volentieri, Bastava studiare, ti prendevi il libro e studiavi, cosa ci vuole? Ma non so quale libro ci vuole per studiare, Fabrizio, me lo prendi tu, una volta che dai l'esame potrei mettermi in coso di diventare anch'io radioamatore, però ci vuole testa e capo, quello che mi manca a me. Se non c'è testa in coso lascia perdere, non ci passa gente con la testa e fanno a te. Vabbè, lascia stare, vai, a proposito lo devo portare e tu non ci vuoi andare, ti stai buttando a terra. No, non è che non ci vuoi andare, no, il discorso è questo, che per fare quella cosa lì ci vuole molto, diciamo, sacrificio e buona volontà, soprattutto quello, buona volontà di stare giorno, giorno per giorno con il libro a mano, leggersi tutte quante le cose, sapere tutto quanto a memoria. A me piacerebbe, te lo dico ben chiaro, a me piacerebbe, però adesso vediamo un po' se in caso tu mi dici dove comprare il libro, me lo compro e mi metto a studiare. Una volta che posso dare anch'io l'esame per il radioamatore, vediamo un po'. Se è fatto già te lo regalo il libro, se è fatto. Va bene, grazie. Se non passo mi serve ancora che vorrò ancora studiare, io mi sto scaricando una cosa, non è lenta questo computer. C'hai l'esame Fabrizio? Il 29 di questo mese. Veglia, ti scendi assieme a Antonio? E insieme al Grotte. Speriamo. Vi auguro in bocca al lupo di passare tutti e due sperando che qualcuno ci faccia una preghiera per da qualche santo, per almeno una preghiera per passare tutti e due qua. Questo è il bene che vi voglio a tutti e due, soprattutto a te Fabri. Spero che tu passi alla grande, al 90%. Sì, speriamo, se no faccio, proveremo pure, perché qui non è più possibile, perché è un casino, comunque, non so da dirti. Ma buona, mi si chiede anche passo un po' in curriculum, che mi finisco di fare questa cosa, sto cercando di fare un lavoretto e non ci riesco, sto scaricando un altro programma per vedere se riesco a collegare una cosa al PC, e sto battagliando da poco fa da ieri, e adesso l'ho ripreso in mano. Ci sentiamo dopo, tanto sono in ascolto qua. Va bene, non c'è problema, anch'io sono in ascolto, ok, va bene. Buonasera. anni, Capri 2, buonasera Beato, chi ti risente dopo una maria di tempo, una stretta di paletta, cambio. Sì, anche l'orecchio perso e il lavoro mi sta uccidendo, quasi ti ho detto. Come nascivo Arturo, se non sbaglio? Lucino, sono Capri 2. Ok, Lucino, almeno posso anche l'orecchio, sto lavorando, Giuseppe, lavorando, guarda, come un argine, infatti. Devo anche cambiare tutti gli H di abitazione, da qui devo trasferire un altro appartamento, mamma mia, sono proprio più. Perché sto prendendo l'apparecchiatura e quelle della radioamatore, il disco, il ricevitore di aereo, l'altro apparecchio, tutta quella roba lì la sto tutta prendendo. Perché ti devo trasferire tutto da qui. Cosa vuoi fare? E dove ti devi trasferire già? Ho sempre qui in paese un altro appartamento che ti sto scappo e sto qua facendo lo stesso la casa, hai capito? Ho anche un altro appartamento giù della morte, qui devo smantellare il tutto, hai capito? No, lascio qualche apparecchio civile, lascio l'altra roba la prendo, ce n'è una marea, ce n'è, hai capito? Sto andando via un po' gli apparati perché ci sono troppo, io ti ho detto metterli nel garage e poi farlo qui di brutto, capito, non avevo tempo più a stare attaccato, me ne ho lasciato uno per il pullman, me ne ho lasciato, questo me lo lascio, però quelli di HF li prendo tutti. E K, c'è quando quanto ne vuoi? Vediamo un po' se trovo qualcuno che è interessato, ti faccio sapere. E poi c'ho l'altro, c'ho il Midina, la stazione spalle a 40 canali con bande laterali, sto prendendo anche quello, cioè mi lascio quelli degli anni 70, qualche uno di altri me li prendo, cioè non posso stare attaccato a queste cose perché c'ho da fare col pullman, guarda, non me la lavoraccio, hai capito Giuseppe, non me lascio uno ogni tanto per entrare, però qui ce n'è una marea. Comunque se interessa qualche duro, quello della stazione spalle lo sto vendendo 150 euro, c'ho anche le bande laterali, quello, Midland, Cipira, stazione spalle, bellissimo. E poi gli altri vedremo perché c'è un Lincoln che c'ha le serie 20 anche, venderò gli scrap e trasmetti, cioè non me ne faccio niente, non posso fare la roba e poi si guasta e quindi come diciamo che ce la stia buttando. Beh, non ci sono problemi, adesso se sento qualcuno che è interessato a pagare la tua stazione ti farò sapere tramite baracchino, ok? Già. Tirano avanti perché piano piano lavoricchiando stiamo facendo queste cose della scuola, però finisco il 15, dunque adesso sperando che me lo rinnovano nuovamente il contratto, se no anch'io sono a punta capo, capito? Dunque vediamo un po' cosa ne riesce a fare, parlare con l'assistente sociale, c'ho l'appuntamento, vediamo se riesco a farmelo rinnovare almeno per un paio di mesi, vediamo un po' e tirare avanti così. Mi speriamo bene, Giuliano, io ho finito oggi con la scuola, mi è rimasto l'asilo che finisce il 30, ma quello non è che... E poi c'è il mio fumo, l'hai capito, cosa burocratica, sono delle fatte, non sono più di 1.000 euro, fare la registrazione al PRA, adesso c'ho da cambiare le targhe nuove, una cosa e l'altra, caricare di prima, di nuovo, ma dopo un sacco di soldi, sto perdendo, speriamo, diciamo che mi rientrino, anche se a poco che mi rientrino tutti. Va bene, dai. Ok, dai, rimango in quelli, ci sentiamo tutte le prossime, mi ha fatto piacere risentirti, ci sentiamo tutte quante le prossime, ciao già, ci sentiamo. sentiamo la prossima volta, dai, ciao ciao. Ciao, signore, mi ha fatto piacere, poi ho chiesto anche per trovare l'apparato che andava, sembra che ti ha funzionato tutto, tutto lì, anche io lo lascio un po' accendere il corrente, si è capito, e ho fatto qualche cosettina qui, di nuovo sono stati tutti gli amici in ascolto. Giappa. Ciao già. Come va? Bene, bene. Ah, girando, stai questo tempo. E no, sto facendo, sono voglio finito con la scuola e dialoghiamo, però c'ho il coso in un lato fa ricambio delle targhe, già, hai capito? E almeno più lungo. Appetiti da caffettardo a caricare il clima, o niente, già c'ho anche un po' di lavoro già, però hai capito, sono finché non finisco definitivamente adesso qua, cioè, mi è rimasto vasivo fino al 30, capito, per essere a spazio libero, perché se devo andare in continente devo essere libero da ogni impegno, e adesso già, non stavo più entrando, anzi sto prendendo su la roba KF, quella roba da Radio Amatore, che non me ne faccio nulla, perché non è più puro in garage, quelli lì li faccio fuori, tanto non li uso già. Io sono entrato solo per salutarti perché stanno riposando, non posso parlare. Saluto tutti, ciao ciao. Ok, ciao già ci sentiamo. Se ho tempo già mi affaccio quando mi sento, adesso chiuso per accenderlo era. Saluto tutti gli amici, ciao a tutti. Ciao, Pescare se non ha proprio lo dire. Ciao Claudio. Sono entrato perché ero mai stanco, e rimane che ribaldo il gruppo. C'era l'offerta e ho fatto un bel consegno, quindi mi sono addormentato così. Quando sono rientrato stavo parlando con Marco Condo e mi sono drubito. Sì, vabbè, io ti capisco, vai. Riposati già, se ci sentiamo più tardi, vai. Ciao Gianni Capridue, anch'io sono qua. Mi sono sdraiato e c'ho sto braccio, mi fa male, dai, ci sentiamo più tardi a tutti. Mi serve ricevitore. Mi, la riscafa. La riscafa che stava a te. Dimmi il tutto. Sono io ricevitore. Però il baracchino è anch'io un po' convalescente, già ne sa, quindi ha tutto il diritto di riposare, perché sicuramente gli hanno fatto il mazzo oggi. Continuare, io invece sono un po' convalescente, quindi mi fa male un po' la spalla, il braccio, e quindi sono tagliato. Vi saluto tutti e ci sentiamo semmai più tardi. Ciao Sandro, Gianni Doppio Rum, Gianni Capelue, c'è Giuseppe Lucino, in Corrix, poi non so chi è entrato altro, comunque ritenetevi tutti salutati, ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao. Ehi, a chi è? Ci sentiamo più tardi se coincide. Sandro, riprenditela.